Io in questi giorni mi sono ritrovata insomma in prima persona a dover cercare una casa dal 1° di ottobre. Chiaramente mi sono confrontata con una serie di post che i vari ragazzi insomma che in questo momento sono alla ricerca di casa pubblicavano sui vari gruppi presenti su Facebook. La situazione, che è abbastanza nota, sia comunque in crisi da un po' di anni a Bologna, mi è sembrata particolarmente grave quest'anno, e quindi ho cercato di dare un po' il mio contributo nel mio piccolo e di dare voce a questo problema, in modo tale che tutti questi sfoghi, diciamo, che comunque leggevo insomma in questi giorni, potessero non rimanere chiusi all'interno appunto di questi gruppi. E quindi appunto ho scritto insomma questa mail. Non ho ancora ricevuto un riscontro, però a quanto pare non è passato inosservato, e quindi appunto è stato pubblicato anche un articolo a riguardo, e mi fa assolutamente piacere che sia, insomma, che stia iniziando ad esserci un'attenzione particolare sull'argomento. Quali sono i problemi principali che si riscontrano? Tu segnalavi appunto anche dei casi veramente assurdi, con locali di casa che non sono le proprie stanze, che vengono messe in affitto a prezzi esorbitanti. Sì, diciamo che principalmente si tratta dei prezzi, insomma, molto alti, e più che altro molto alti in relazione alla qualità di quanto in realtà viene offerto, perché è chiaro che quando si tratta di locazione si fa riferimento comunque a un contratto, e la libertà contrattuale, voglio dire, è giuridicamente riconosciuta, però è anche vero che bisogna un attimo fare un po' una proporzione tra quanto chiaramente viene offerto e il prezzo che gli si dà. In questo caso si tratta spesso di stanze che magari non si trovano in una posizione particolarmente centrale, immobili che sono molto molto antichi, insomma abbastanza datati, e quindi non è plausibile insomma chiedere magari per una stanza lontanissima dal centro, vecchia, con tutti i problemi insomma che ne derivano, anche 600 euro escluse spese, soprattutto se parliamo di insomma, se ci rendiamo conto del fatto che spesso si tratta di ragazzi che appunto sono a carico chiaramente dei genitori, o di giovani lavoratori che a volte non scelgono anche Bologna diciamo in prima persona, ma sono in qualche modo arrivati qui perché hanno trovato lavoro qui, quindi non hanno molta scelta in questo senso, e quindi questo è un po' il problema diciamo principale. Poi se si parla insomma di quello che insomma riguarda le agenzie immobiliari, le percentuali che vengono richieste eccetera, i costi aumentano ancora maggiormente, quindi è difficilissimo far fronte insomma a tutti questi costi molto elevati. Tu dicevi sei una giovane lavoratrice, quindi insomma il problema non è solo quello degli studenti, che magari sono a carico ancora delle famiglie, ma anche di chi ha un lavoro e però non riesce a trovare una soluzione sostenibile in città. Esatto, io nello specifico chiaramente, essendo appunto una lavoratrice, cercavo una soluzione diversa rispetto a quella magari di una singola stanza, semplicemente per questioni ed esigenze insomma lavorative, ecco. Si tratta magari, non lo so, di un bilocale, cioè avrei cercato un bilocale, un monolocale per il mio ragazzo, per avere qualcosa di decente insomma dignitoso. Parliamo di oltre i 950 euro, con comunque chiaramente poi tutte le spese anche da affrontare, ma anche in questo caso sempre per immobili che non, spesso anche mi permetto di dire che a livello diciamo di sicurezza non mi sentirei nemmeno di sentirmi ecco sicura di abitarci, ecco, perché si tratta veramente di posti angusti che non meritano nemmeno di essere chiamato casa in qualche caso, ecco, per cui vedere questi annunci fa davvero arrabbiare. E quindi insomma questa è stata un po' la situazione, questa purtroppo continua ad essere, e mi sono rivolta anche ad un'agenzia per iniziare ad avere qualche informazione, ma a quanto pare anche loro sono abbastanza, diciamo è noto anche a loro il fatto che gli immobili, il problema davvero grande di quest'anno è che proprio sono sottratti a questo mercato, perché tutti quanti chiaramente cercano di guadagnare con la piattaforma Airbnb, insomma è un fenomeno ormai noto a tutti, e quindi ce ne sono di meno, quindi c'è un'offerta assolutamente minore rispetto alla richiesta per via di questa situazione. Non so se hai provato a cercare anche nei comuni limitrofi e se questo problema è presente anche lì. Io ho sempre vissuto a Bologna, in questo momento lavoro in centro, quindi chiaramente anche lì certo potrebbe essere una soluzione. Non ho idea di come funzioni il mercato immobiliare, ma da quello che ho insomma appreso durante questi giorni, a quanto pare la situazione non è molto molto lontana da quella di Bologna, anche nei dintorni. Se poi dopo dobbiamo calcolare anche costi di trasporto per spostarsi, e anche una qualità della vita che chiaramente è differente forse dal rimanere a Bologna, anche fuori dalle mura, perché chiaramente la pretesa di tutti non è quella di rimanere necessariamente, voglio dire, su Piazza Maggiore e dintorni. Chiaro a tutti, questo non è proprio possibile, però bisogna contare anche quello, cioè spostarsi vuol dire cambiare e affrontare anche altri costi ulteriori.